fuori di testa, resta la presenza, tutto risuona nella stanza. Cerco una strada certa, esco fuori di testa, resta la presenza, tutto risuona nella stanza. Nella stanza cerco tra le genti risposte che scagionano i denti da dure morse, le mie sono sorte tra le corse, tra dure mosse. Ora contengono perfette gli enigmi e miei proposti dalla vita, diventate esclamazioni di melodie come frizioni pacificate. Odi e venti come nuvole tra i denti. Odi e venti come nuvole tra i denti. Ora che respiro, ora che vorrei, trovo quanto prima non volevo e volevo solo. Ora invece trovo, respiro nuovo, dolce armonia in volo. Ora che respiro, ora che vorrei, trovo quando prima volevo e volevo solo. Ora invece trovo, respiro nuovo, dolce melodia in volo. Anche le domande troppo dure, anche quando fanno male, la percorsa ha sapore di sale. Pure le risposte che trovai, passi del discorso, quando troppo vai, li perdi. Rimane solo l'inconscio, il senso che conservi. Corse dell'essenza, quando invece resti, sporche domande che scruti, le inali al sapore della dissolvenza, superficie lenta di una strada della presenza, ma solo in apparenza delle risposte troppo vere. E corri verso e poi aspetta risposte, sfonda e poi ricostruisci le porte rotte, dispari come bianche bugie, sorrette dalle mani stanche, solo puoi fare, poi illumini sentieri oscuri. Corri verso e poi aspetta risposte, sfonda e poi ricostruisci le porte rotte, dispari bianche come bugie, sorretto dalle mani stanche, sono i tuoi fari per illuminare sentieri oscuri. Cerco una strada certa, esco fuori di testa, resta la presenza, tutto risuona nella stanza. Ora che respiro, ora che vorrei, trovo quando prima volevo e volevo solo. Ora invece trovo, respiro nuovo, dolce armonia in volo. Ora che respiro, ora che vorrei, trovo quando prima volevo e volevo solo. Ora invece trovo, respiro nuovo, dolce armonia in volo. Cerco tra le genti risposte che scagionano i denti da dure morse, le mie sono sorte tra le corse, tra le dune mosse. Ora contengono perfette le nemiche mie proposte dalla vita, diventate esclamazioni e melodie come frizioni pacificate, odi e venti.